nei prossimi 10 giorni saranno ancora vietate tutte le competizioni sportive di ogni ordine e grado, ma dobbiamo chiedere un ulteriore sacrificio anche e soprattutto ai nostri atleti, e quindi abbiamo vietato anche ogni tipo di allenamento in ogni tipo di struttura. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Nella voce ricavi, ci sono dei ricavi certi che sono quelli delle televisioni e delle partite, e sulla base di quelli si organizzano i propri costi. Essendo una società che ha gestito la stagione in equilibrio, anche il venir meno dell'ultima tranche di diritti televisivi compensata dagli stipendi, io finisco la stagione in pareggio, conservo sicuramente la Serie A, però io dico voglio giocare nonostante finanziariamente e da un punto di vista del rischio retrocessione non mi conviene, perché ho sposato completamente la causa del titolo. Senta, ma e cosa fa in casa? Mi sono riguardato tutte le partite del mondiale. Quali? Quelle di Sky, tutti, certo. Tutte quelle di Sky. È vero il discorso delle TV, delle partite. La mia domanda è: ma noi clienti Sky, per esempio, che pagheremo per intero l'abbonamento a Sport e adesso ci stanno riproponendo tutti i mondiali che l'Italia ha vinto o perso negli ultimi 80 anni, alla fine della fiera va sempre in tasca all'ortolano, come si dice. Beh, questi tutti i temi del momento, della settimana, delle ultime settimane, degli ultimi giorni, dei prossimi giorni, insomma è tutto qui, stipendi, TV, calendari, incertezza sulla ripresa, e questi sono i temi che appassionano di più. Oggi Miriam Lucchetti e Claudio Schiattoni in redazione, Roberta Frisani e Gianmarco Ferronati in regia. Saluto Giovanni Capuano, ciao Giovanni. Eccomi, ciao. Ovviamente per Luigi Pardo, ciao Giovanni. Ciao, ciao Pier. Ciao. Ciao. E Marco Berinazzo, che è venuto a farci compagnia. Eccomi, ciao ragazzi. Come si deve. Allora, abbiamo sentito nell'introduzione, nella nostra copertina, il presidente del Lecce, Stichi Damiani, che ho molto apprezzato ieri nel suo intervento a tutti i convocati. Poi abbiamo sentito Marcello Lippi, che si guarda le partite del suo mondiale, si riguarda le partite del suo mondiale come molti italiani, e un ascoltatore che dice: ma va tutto in tasca all'ortolano se noi adesso si paga Sky senza avere le partite. Marco Berinazzo, questo è uno dei grandi temi, e lascio a te la parola per chiarire una volta di più quali sono i rapporti allo stato dell'arte. Sì, è il grosso problema che si sta delineando, e non soltanto rispetto a questa stagione ma anche rispetto alla prossima. Allora, proprio per fare un discorso molto pratico, chi ha l'abbonamento alle pay TV continuerà a pagare, almeno chi non abbia la possibilità di fare una disdetta, a prescindere o meno che il campionato riparta. Le TV hanno dei contratti capestro, tra virgolette, nel senso che anche di fronte a una causa di forza maggiore entro il 1° maggio devono sborsare la sesta rata da circa 233 milioni complessivi a favore della Serie A, soldi che poi a cascata per un 10% vengono anche distribuiti sulle serie minori. Ovviamente, come abbiamo già visto accadere in Francia, come sta per accadere in Germania, come potrebbe accadere in Inghilterra se il campionato non riparte, di fronte a questa eventualità Sky e DAZN avranno chiaramente dalla loro cosa, non il contratto ma i soldi sono in tasca a loro, e potrebbero appunto non pagare, avviare una controversia legale che la Lega potrebbe vincere, ma con la durata delle cause che conosciamo in Italia, insomma, non in breve tempo. In ogni caso non sarebbe un'idea geniale quella di mettersi a litigare con i soggetti che tra qualche mese si risiederanno al tavolo proprio con la Lega per discutere quanto dare alla Serie A nel triennio 2021-24. Uh-huh. Per cui se fossero costretti a pagare tutto, chiaramente lo farebbero scontare poi sul prossimo contratto. Quindi è evidente che si crea un problema di entrate, a prescindere dal riconoscimento di una causa di forza maggiore per tutti i club di Serie A, oltre ai problemi di entrate che scaturiranno sicuramente sulle sponsorizzazioni, per lo stesso motivo le aziende avranno difficoltà a pagare anche quanto già contrattualizzato, semplicemente perché avranno a loro volta problemi di liquidità e operai da tenere al lavoro, tenere in cassa integrazione o forse licenziare, e problemi, danni certi dal botteghino, già quelli li possiamo stimare in 100-150 milioni, a prescindere dal fatto che il campionato riprenda o meno, perché anche se dovesse riprendere, difficilmente potrebbe riprendere a porta aperta. Ma, per completare il discorso, e poi vi passo la palla a Pierluigi e a Giovanni, come inquadra la posizione che sembra molto lineare espressa ieri da Sticchi Damiani, cioè non prendo i soldi della TV, non pago i giocatori perché a quel punto non si gioca l'ultima parte della stagione e quindi io ho fatto i miei conti, ci sto dentro. È esattamente il tipo di ragionamento che stanno facendo moltissimi club, quindi congelare la loro posizione attuale in modo da salvaguardare la classifica e il traguardo conquistato, no? A seconda delle necessità. Attenzione però che esiste un problema qui, sì, di causa di forza maggiore, nel senso che se il governo ha decretare lo stop del campionato, a quel punto c'è tutta la possibilità, diciamo, di non eseguire le prestazioni da parte delle squadre e quindi di poter bilanciare il mancato ricavo dai diritti TV con i risparmi sugli ingaggi. Se fossero invece autonomamente le squadre o le leghe di riferimento a stabilire uno stop anticipato del campionato, quindi non con un provvedimento di legge, si aprirebbe un'estate di contenziosi, perché qualunque calciatore potrebbe invece pretendere, pur a fronte della chiusura del campionato, ma a fronte di una decisione unilaterale, comunque il pagamento del corrispettivo. Questo è il quadro e questo è il motivo per cui, diciamo, si attendono chiaramente da parte della Lega e dei club più illuminati decisioni da parte dell'autorità politica. Quindi ragazzi, mettetevi cuore in pace, perché quest'estate o si gioca fino a Ferragosto e quindi siamo qui, oppure passiamo un'estate in pretura e quindi siamo qui un'altra volta. Siamo pacifici su questo, no Pardo? Sì, guarda, io sono fresco di lezione con i miei ragazzi dello IULM, ieri abbiamo ospitato, e lo ringrazio, il professor Bellinazzo, quindi siamo freschi di questi temi e stiamo perfettamente allineati. Io credo che il tema vero è che questa qui è, come spesso ripete anche lo stesso Presidente del Consiglio, uno shock simmetrico, è uno shock che riguarda tutti, che riguarda i diversi paesi e che nel mondo del calcio, adesso uso una parola per fare un po' il figo, ringrazia tutti gli stakeholder, cioè tutti i portatori di interesse. I portatori di interesse sono ovviamente le società, sono i calciatori, sono gli sponsor, sono gli abbonati alle pay TV, sono le stesse televisioni, quindi che la situazione è assolutamente questa. Il meccanismo è a cascata, ci sono mille cose che tu puoi andare a trovare nei contratti, per cui appunto ad esempio le televisioni possono essere obbligate a pagare, però innanzitutto le devi portare in tribunale, o comunque, anche ammesso che le televisioni ti dicano va bene, ti pago lo stesso anche se non si gioca, e scusate lo preciso, tanto per, insomma, sto parlando ovviamente da libero pensatore, non ho sentito nessuno né di DAZN né di Sky, sì, né di, sì, Mediaset, sì, né di Rai, perché poi c'è pure la Coppa Italia e la Champions. E puoi arrivare anche allo scenario, puoi anche evitare lo scenario che dice Bellinazzo, cioè ammesso anche e non concesso che le televisioni dicano vabbè ti pago uguale anche se non giochi, poi però c'è un nuovo contratto, poi comunque voglio dire questi soldi qui in qualche modo le televisioni dovranno recuperare, quindi c'è un tema complessivo, il sistema deve stare in piedi. È un po' il ragionamento che si faceva prima per quanto riguarda i calciatori possono anche abbarbicarsi e dire no, io voglio tutto anche se non gioco, poi però se le società non hanno più una lira l'anno prossimo, tanto per capirsi, il problema ce l'avranno, quindi è veramente una situazione da questo punto di vista simmetrica, dove tutti i soggetti dovranno rinunciare a qualcosa e poi che tipo di soluzione si troverà non lo so, però è ovvio che gli abbonati alle pay TV abbiano diritto a un ristoro se le partite non vengono trasmesse, sì. E immagino che così come gli abbonati allo stadio, così come questo è l'altro fronte, l'altro motivo per cui potremmo passare un'estate in pretura o al TAR, perché Giovanni ci saranno anche, se venissero cristallizzate così le posizioni, ci saranno anche i ricorsi magari di chi non può salire in Serie A oppure in Serie B. Insomma, questo è l'altro fronte. Sì, ma guarda, a me il dibattito sembra lunare, cioè l'idea che chiuderla qui, rinunciare ai soldi delle TV o peggio immaginare che le TV paghino comunque, ma tanto con il taglio degli stipendi dei calciatori tu riesci a tenere in equilibrio il sistema, è una certezza scritta sulla sabbia, ma scritta sulla sabbia fine, perché non è così in Italia, dove tra l'altro i soldi di quella benedetta ultima rata dei diritti TV che tutti i tifosi hanno imparato a conoscere in queste settimane sono state in gran parte già spesi dai club, e quindi sono soldi che sono già stati utilizzati, non sono soldi che se non arrivano è lo stesso, sono stati spesso anticipati da istituti finanziari, da istituti di credito, quindi il calcio ha bisogno, per limitare i danni, di ripartire, ma non lo dico io. E non può smentirlo la Lega di Serie A. Oggi su Marca in prima pagina c'è la stima dei danni per la Liga, e tra partire a porte chiuse e portare a termine la stagione ad agosto e non ripartire più ballano 600 milioni di euro di differenza. In Italia balla più o meno la stessa cifra. Ora, che si possa immaginare di colmarla tagliando 3 o 4 mensilità, ammesso che si riesca, degli stipendi dei giocatori, basta prendere una calcolatrice, fare due calcoli e vedere che sì e no si arriva a metà. E quindi tutto questo dibattito a me sembra inutile. A me sembra, so che poi ne parleremo dopo, che siano europeo. Tutte fughe in avanti. Mm-hmm. Esatto, e che alla fine non decideranno i club italiani, come non decideranno i club inglesi che stanno immaginando come ripartire, i tedeschi lo stesso. Alla fine deciderà ovviamente la politica in senso alto, quindi l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'Istituto Superiore di Sanità, per il virus. Primo, sì, sì, ma esattamente come deciderà il destino di tante filiere industriali di questo paese e di tanti altri paesi che in questo momento sono chiuse, e se ci sarà lo spiraglio per cominciare a giocare, visto che sono caduti tutti i paletti di politica sportiva dal 30 giugno, i contratti e tutti gli altri cadranno, i club si adegueranno e giocheranno, altrimenti sarà un bagno di sangue. Cioè l'idea che ci si possa salvare chiudendola qui, io la trovo veramente un'idea surreale. No, certo, dobbiamo tenere conto anche del fatto che, lo sapete bene, no? C'è quel substrato di sentimento comune, di opinione pubblica, che dice: beh, in questo momento non è etico, elegante riprendere a giocare, pensare di riprendere a giocare a pallone, sarebbe solo una questione economica. Ma quindi cosa eccetera, facciamo, eccetera. È vero, no, ma è solo un sentimento, no? Dicono i calciatori, certo, tagliamogli gli stipendi, cosa pensate? C'è questo sentire di fondo che diventa anche molto demagogico, Giovanni. No, ma io sono contrario a questo. Carlo, quindi che cosa facciamo? Quando, e tutti noi ce lo auguriamo ovviamente, quando pur con regole di sicurezza, mascherine, guanti, distanza, con tutto quello che con cui dovremo imparare a convivere, quando magari a metà giugno, inizio giugno, verranno riaperti i bar, i ristoranti, le pizzerie, tra due mesi potrà essere magari tutto il cinema diverso, potendo entrare soltanto in 15, adesso dico un paradosso, i drive-in torneranno di moda, ragazzi. Noi che cosa faremo? Diremo che non è opportuno andare in pizzeria, al cinema, al bar e al ristorante, perché comunque ci sono state migliaia di morti. Sai cosa succede? Certo, poi certo che lo affronteremo, poi con uno spirito diverso. Poi diranno: ci sono quei telandroni dei calciatori che si sono sfilati, adesso la vita è ricominciata e loro stanno sempre in vacanza. Posso chiedere da una parte e dall'altra sommessamente a tutti i protagonisti di questa vicenda di non tirare in ballo i morti, cioè dire dobbiamo giocare o dobbiamo non giocare per rispetto. Ecco, lasciamola perdere questa cosa, perché quella è una storia talmente più grande, talmente più terribile, lo ripetiamo sempre, ci sono tante famiglie per le quali non andrà tutto bene, già andrà tutto male, sono purtroppo più di 10.000 persone e quindi 10.000 famiglie, quindi lasciamo perdere questo discorso, perché veramente mi però hai colto il senso di questo substrato di demagogia diffusa. Se arriva il signor Burioni, faccio un esempio, o la Capua, o Borrelli, o Conte, e ci dice: ragazzi, per i prossimi 10 anni non si può giocare a pallone, perché sennò la gente si fa male, io lo accetto, con tutto che è la mia passione più grande, il mio lavoro, io questa cosa l'accetto, cioè, finché ci sarà un rischio, però questa valutazione la devono fare gli scienziati. Le persone che si occupano invece dello sport, secondo me, devono avere l'atteggiamento sano, devono avere la lucidità di programmare di chi spera, esatto, in totale sicurezza, di poter ricominciare a fare il suo lavoro. Sicuro. Di poter ricominciare e non utilizzare questa situazione, secondo me, da una parte o dall'altra per avere dei vantaggi di un tipo o dell'altro. Volevo chiedere un'opinione. Cioè, io ho questo WhatsApp, non riesco a capire bene il nesso, ma c'è un ascoltatore che scrive: se i calciatori non si riducono gli stipendi, ci sarà una pioggia di disdette a Sky Calcio, statene certi. Non colgo il nesso immediato tra la riduzione dei stipendi dei calciatori e le disdette agli abbonamenti, ma comunque, a parte questo, il fronte dell'Associazione Italiana Calciatori lo scrive anche oggi, ad esempio, Ivan Zazzaroni, Marco, su questa storia della riduzione degli stipendi. Alla fine ognuno, come era anche prevedibile, va per i fatti suoi. Sai, stiamo parlando del sindacato di calciatori, cioè di una categoria che quanto di più individualista ci possa essere, per N ragioni, non ne faccio una questione morale, ma evidentemente abbiamo una eterogeneità di interessi, di carriere, di situazioni anche anagrafiche che chiaramente non consentono una rappresentanza collettiva. Eppure in questo momento, a mio avviso, sarebbe necessario un atto di responsabilità collettiva di tutti i soggetti ed è necessario oggi più che mai quello che chiamo un atto di empatia nei confronti di chi sta soffrendo, nei confronti delle aziende che chiuderanno, delle attività che spariranno. Cioè un atto per cui, posto che siamo e rientreremo in un'economia post bellica, anzi sarà anche peggiore, perché la guerra finiscono i bombardamenti e non c'è, anzi c'è la voglia di abbracciarsi, di stare insieme e di ripartire. Qui avremo anche questo problema psicologico di ritornare a fare le cose che faremo prima. Quindi c'è bisogno di un atto collettivo da parte di tutti i settori, e in questo senso perlomeno un'indicazione chiara dell'AIC sulla necessità di un taglio, ma non tanto degli stipendi attuali, anche una disponibilità a rinegoziare i tanti contratti pluriennali che sono stati siglati in condizioni, definiamole normali, e che magari prevedono ingaggi importanti e non più sostenibili dalle singole squadre, deve essere necessario, proprio perché in questo momento bisogna assicurare la continuità aziendale, e parlo della continuità aziendale del calcio italiano come azienda, perché rischiano di saltare, e ripeto, le conseguenze economiche saranno maggiori nella prossima stagione, perché se uno sponsor viene meno, chiaramente perché l'azienda che fa pubblicità e promuove deve privilegiare il suo operaio piuttosto che la partnership commerciale, su questa stagione ti vengono meno più o meno un terzo dei ricavi che tu hai preventivato. Ma se lo sponsor ti saluta, magari anche con un contratto pluriennale, però si appella alla causa di forza maggiore e rescinde il contratto, sulla prossima stagione ti verrà meno un'intera annata di ricavi. Quindi se ora puoi preventivare un 25% di minori ricavi da sponsorizzazione, il prossimo anno, se andrà bene, sarà meno 50. Sì. E meno 50 significa affamare il sistema. Tra l'altro c'è anche una nuova normativa che si applica alle società di calcio sulla crisi d'impresa, che era nata per tutelare le squadre di calcio, quindi per far venire fuori prima gli elementi di crisi e gli elementi che possono determinare appunto uno squilibrio patrimoniale, che bene, se applicato oggi alle società di calcio, manderebbe in stato di crisi tre quarti società. Certo. Quindi da questo punto di vista c'è bisogno, e finisco, di una presa di posizione collettiva e un'assunzione di responsabilità collettiva. Sembra retorico dirlo, ma se non lo si fa si mette a rischio quel nesso empatico tra il calcio e i cittadini. E che quindi faranno fatica a essere tifosi domani. Ma noi sappiamo già che non accadrà. Sono passati 25 giorni, è passato un mese dal momento in cui il calcio, oltre a tutti noi, siamo entrati in questo incubo. E ancora oggi tu apri i giornali questa mattina e trovi che la posizione dell'asso calciatori non si è spostata di un millimetro. E cioè, sì, siamo disponibili in termini puramente di teorici, però vedremo, però prima bisogna valutare, però prima bisogna capire chi paga e voi che cosa avete pagato, voi che cosa avete messo. Quattro mensilità, modello Juve, no, non si può fare perché non sono tutti la Juve, che in assoluto è vero. La realtà è che io credo succederà esattamente quello che è successo con l'accordo della Juventus, e cioè ci sono anche istituti che non hanno un senso, e l'asso calciatori, un sindacato calciatori che debba tenere insieme la Serie A e la Serie C non ha senso davanti a una crisi di questo genere, che saranno semplicemente scavalcati da quello che succede, dal succedersi dei fatti. Il primo, lo abbiamo visto, è stato l'accordo con la Juventus. La Juventus si è mossa, ha chiamato i suoi calciatori, ha firmato, probabilmente nei prossimi mesi tornerà anche a discuterne se ci sarà la necessità, ma non c'è nessuna ragione per cui la Juventus, cito la Juventus perché è quella che si è mossa, ma vale anche per tanti altri, debba mettersi ad aspettare le decisioni di Tommasi. È una cosa che non esiste, è un controsenso. No, è per questo che è Giovanni... una multinazionale da centinaia di milioni di euro, è quotata in borsa, farà i suoi interessi come li ha fatti negli ultimi giorni e come li ha fatti con quell'accordo. Ed è per questo che ognuno procede per conto suo, con trattative con i suoi dipendenti, non a livello collettivo. Paolo, provincia di Brescia, buongiorno. 800 24 00 24, per intervenire vi aspetto. Paolo, prego. Buongiorno. Io volevo intervenire perché, come diceva prima, adesso non ricordo Capuano, siamo fuori dalla luna, nel senso, cioè siamo, è assurdo continuare a parlare di riprendere la ripresa del campionato, poi questo discorso sulla diminuzione degli stipendi, un sistema che va in crisi. Ragazzi, qua se parliamo della Serie A, parliamo di soggetti privilegiati che possono far vivere 7 generazioni dopo di loro a champagne guadagnano molto, quindi mi sembra tutto un sistema. Io la paura che vedo dietro questa situazione cos'è? Che si rompa tutto il giocattolo, ma anche tutto il sistema che ci sta intorno, che può essere la stampa, può essere quant'altro. Ma vabbè ragazzi, si riparte e chi non potrà più giocare a pallone farà il pizzaiolo. Buonanotte, come io sono a casa in fede della settimana. Perdoni, però Paolo, mi perdoni, detto che chiaramente in questo momento, ma stiamo al 3 aprile, non ci sono le condizioni, si ragiona di capire se possano ripartire a inizio giugno con tutte le precauzioni del caso, esattamente come capita per tanti altri settori industriali che in questo momento sono fermi. Non si può liquidare il calcio immaginando che i calciatori possono campare per 7 generazioni, non guadagnano tanto, guadagnano troppo, ma dietro il calcio di Serie A ci sono 300.000 posti di lavoro, di gente che magari di euro ne guadagna 1.500, 2.000, e chiaramente va trattato e va ragionato esattamente come l'operaio o l'addetto di qualsiasi altro settore. Certo, ma sicuramente io per quelle persone a cui mi sento vicino è giusto che intervengano degli strumenti sociali, che può essere la cassa integrazione straordinaria e quant'altro. A me la cosa che dà fastidio è questo esporsi dei calciatori che, come diceva prima, non so, forse Bellinazzo, hanno una caratteristica dell'individualità, cioè loro sono lavoratori dipendenti ma solo sulla carta, sostanzialmente sono dei liberi professionisti. Altra cosa, come si può pensare di aprire il campionato quando hanno rinviato le Olimpiadi, hanno rinviato gli europei? Arriveremo ad una pseudo normalità a settembre, e se ci sarà da ripartire tutto un po' alla volta, con tutti che guadagneranno di meno e il sistema guadagnerà di meno, va bene. Però non lo sa nessuno, Paolo, in questo momento. No, non lo sa nessuno. Pseudo normalità a settembre non lo possiamo dire, cioè speriamo che si riparta prima. Avrebbe un senso ripartire prima, come stiamo provando a spiegare, per molte ragioni. E comunque ribadisco il concetto della simmetria della crisi, cioè adesso, al di là del fatto che uno può anche abbarbicarsi su un contratto, può anche dire no, non mi taglio lo stipendio perché con i miei legali ci vediamo in tribunale, uno può anche farlo, ma per dire, in questo momento non è che c'è la crisi di una società per cui tu dici sai che c'è, io ti faccio causa e me ne vado da un'altra parte. E c'è una crisi di sistema dell'economia mondiale e inevitabilmente del mondo del calcio, perché gli stessi problemi che ci sono in Italia ci sono in Spagna, in Inghilterra, e quindi voglio dire è inevitabile che non sarà facile, ma è inevitabile che si trovi un nuovo equilibrio, si troverà un nuovo equilibrio, e sicuramente, come diciamo al giorno zero, il fatturato complessivo sarà, poi Bernazzo in questo ci darà magari, avrà qualche stima, avrà già fatto qualche stima, il fatturato complessivo e quindi a cascata gli stipendi e quindi i soldi che spenderanno le televisioni, probabilmente i soldi che pagheranno gli abbonati, forse i biglietti delle partite, sarà tutto un po' più basso. E questo è quello che succede da un punto di vista di logica di fronte a una crisi di questo tipo, perché non è che il calciatore X dice vabbè sai che c'è, io adesso vado a giocare in Papuasia dove invece guadagno gli stessi soldi, guadagno il triplo. È un problema che riguarda tutti e quindi è uno shock sicuramente. Chi a livello di sistema saprà essere compatto, saprà utilizzare questa occasione per correggere le cose che non vanno, secondo me potrebbe addirittura in prospettiva fare un affare e costruire un calcio più umano e migliore, e chi non ci riuscirà perderà l'occasione, ma tutti comunque inevitabilmente troveranno un nuovo equilibrio, perché non è che finisce il calcio. No, cioè, certo, neanche la passione per il calcio, anche se appunto, in questo momento può sembrare così lontana, no, perché l'ascoltatore di Brescia che ha chiamato, molto gentile, cioè, ha espresso quel sentimento comune, ma che aspettiamo settembre, vediamo eventualmente tutti con meno soldi e chi non vuol più giocare vada a fare l'ortolano, quello di qui sopra, che se lo prende in saccoccia alla fine. Facciamo così, fermiamoci per la borsa, poi torniamo, allarghiamo il discorso all'Europa, perché insomma è stato ribadito a livello europeo, perché mentre in Italia si litiga, cioè chi vuole riprendere, chi è incerto e chi non ne ha nessuna intenzione per ragioni di bottega, in Europa dicono no, fermi tutti, adesso è presto, decidiamo, teniamo la situazione in sospeso, ma l'idea è finire le competizioni internazionali. Ragazzi, per noi utenti credo che l'unica soluzione sia quella di disdire l'abbonamento. D'altra parte, quando si disdice l'abbonamento ti richiama per farti delle offerte più vantaggiose. Ognuno deve tirare l'acqua al proprio mulino, naturalmente. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati. Soluzione migliore sarebbe chiudere qui tutto, UEFA, Champions, Coppa Italia, non abbiamo mai giocato questa stagione, un bel rigo rosso sopra e ricominciamo tutto l'anno prossimo. E se qualcuno ci ha rimesso, chi è che non ci ha rimesso il coronavirus? Riaprire stadi e ristoranti al più presto, io la sera davanti a cena a pesce guardavo la Champions. Ne ho bisogno! Ognuno ha le sue idee. Anche chi lo dici? Sono le due cose che mi mancano di più. Stadi e ristoranti. E il pesce? Sì, vabbè, sarà quello dipende dai periodi. Certo, sì, il pesce è benissimo. Però dico, in assoluto, mi sembrano le priorità, no? A parte allora, le battute, dai. Allora, ovviamente Pierluigi Pardo, Giovanni Capuano, Marco Bellinazzo con noi, stiamo aspettando anche un ospite per cui aprire il fronte internazionale europeo, che è molto interessante. Giordano invece da Foggia, un ascoltatore, buongiorno. Pronto? Buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Certo, volevo dire semplicemente quando riguarda il campionato. Ma perché non fare, diciamo, calci di rigore, così uno si spiega in 10 giorni? Sì, buona idea. Basta 5 rigoristi e un portiere e opportunamente un po' diverso, diciamo. Ma comunque, vabbè. Ok. Le faremo sapere. Beh, adesso si può si può sperimentare di tutto, no? Ieri abbiamo letto che gli inglesi amerebbero provare a finirla senza VAR per ragione di sicurezza, perché non si possono mettere dentro la sala VAR le persone vicine, e questa mi sembra un po', insomma, un tentativo di liberarsi del VAR che già gli inglesi non amano, mentre magari è più interessante la storia delle 5 sostituzioni, cioè sì, l'idea che se si comprime poi la stagione in 5-6 settimane d'estate con calciatori, certo, che rifaranno, certo, una parte della preparazione, ma chiaramente non potranno essere nelle condizioni migliori, per preservare loro e per preservare un po' la regolarità della competizione si può pensare di fare più cambi. Magari di questo si può parlare, i calci di rigore non lo so. Mi sembra un po' estremo un po' ardita come, come soluzione. Si finisce, però, si finisce abbastanza presto. Sì, ci si mette poco. Ci si mette poco. La monetina è velocissima, se vuole. Allora, saluto e ringrazio Alberto Colombo, che è segretario della European Football League. Buongiorno. Buongiorno a lei, ben trovato. Allora, ieri c'è stata questa lettera firmata da Ceferin Agnelli per l'ECA, dell'European Football League, in cui grosso modo si dice che, sintetizzo, qualunque decisione di sospendere i campionati nazionali in questo momento è prematura e non giustificata. Il dover completare la stagione con risultati maturati sul campo è il fine che tutti devono perseguire sino a quando è possibile, anche in situazioni di epidemia senza precedenti come questa, di pandemia senza precedenti come questa. L'UEFA ieri ha ribadito che ognuno decida in casa sua. Sappiate che per noi è presto, il momento in cui dovremo pensare di tirare giù la Sara Cineschi in maniera definitiva su questa stagione. Quindi si insiste a livello europeo sulla chiusura con quando non si sa di questa stagione, così? Innanzitutto una precisazione, la lettera che è stata inviata ieri sera è una lettera di tre organizzazioni, la UEFA che l'ha inviata alle rispettive federazioni, la ICA, la ECA che l'ha inviata ai rispettivi club e noi come European League che l'abbiamo inviata a tutte le leghe domestiche. Sì. Quindi una lettera firmata dai tre presidenti delle tre organizzazioni, leghe, federazioni e club. Diciamo che il contenuto principale di questa comunicazione riflette il fatto che stakeholders, quindi tre organizzazioni, hanno lavorato duramente nelle ultime 2-3 settimane per creare le condizioni nel calendario affinché si possano concludere i campionati nazionali nell'eventualità che si possa tornare a giocare. Ovviamente nessuno ha la risposta quando si potrà tornare a giocare. Questo dipende dall'evoluzione del virus, ma dipende anche poi dalle decisioni e dalle restrizioni che eventuali governi implementeranno a livello nazionale. La situazione potrebbe essere diversa da paese a paese, quindi in alcuni paesi ci potranno essere le condizioni di tornare magari a giocare ai primi di giugno, mentre in altri paesi sarà possibile solo a fine giugno, o magari se l'evoluzione sarà molto più negativa non sarà possibile del tutto. Quantomeno abbiamo creato in questo momento, con le informazioni a disposizione attualmente, le condizioni del calendario per poter terminare tutti i campionati nazionali di tutti i paesi in Europa nell'eventualità che si possa riprendere a giocare direi a partire da fine maggio. Sì, il rischio però potrebbe essere quello di un europeo, di una calcio europeo a due velocità, Marco Bellinazzo, perché il fronte si incrina. Ad esempio in Belgio hanno deciso di sospendere il campionato, il Bruges verrà proclamato campione ed è finita lì. L'Olanda vorrebbe fare la stessa cosa. Il rischio che potrebbe, cui si potrebbe arrivare, cui potrebbero fare i conti anche i club italiani, è quello di una, di un calcio in cui i campionati sono stati chiusi ma in Europa si continua a giocare. E anche in funzione del fatto che i tempi di diffusione della pandemia, come sappiamo, in Europa sono stati leggermente diversi da paese a paese. L'Italia è stato il primo importante focolaio, quando in Italia già si prendevano le misure di lockdown, in altri paesi vedevamo ancora giocare, no, con gli stadi pieni. E quindi da questo punto di vista effettivamente c'è una non sincronia magari nella chiusura anche dell'emergenza sanitaria, di conseguenza nella riapertura anche dei sistemi calcistici. In questo momento diciamo è davvero difficile pensare sinceramente a una riapertura, cioè a una ripresa, per meglio dire. Una riapertura credo che non se ne riparlerà nemmeno a settembre-ottobre, con la fine della nuova stagione, perché la pandemia terminerà tecnicamente 4 mesi dopo la fine dell'emergenza sanitaria, e già vedo insomma i prefetti italiani, come dire, molto resti a prendersi la responsabilità di aprire gli stadi fino a che non ci sarà questo tipo di tranquillità, diciamo, giuridica, e poi quella psicologica è ancora un'altra questione. Quindi io credo che diciamo forse sarebbe sinceramente più opportuno, al di là di tutte le conseguenze economiche che abbiamo citato prima, preservare l'inizio della prossima stagione, che già risentirà di effetti economici, cercando, diciamo, di limitare i danni in questa stagione e quindi non andare oltre certe soglie. Per pensare di finire a giocare la stagione ad agosto, sinceramente mi sembra, ma già a metà luglio mi sembra una contraddizione rispetto alla possibilità di salvare due stagioni, a meno che non si voglia fare un discorso più generale, allora rivedere in senso ampio i calendari, anche pensando a Qatar 2022, e a quel punto bisognerebbe proprio rimodulare tutte le stagioni. Forse vedo più una scelta di questo tipo, più radicale ancora rispetto a soluzioni media portata, che finirebbero per rovinare due stagioni invece che una, quella attuale, che mi sembra già abbastanza compromessa. Sì, io però penso, Carlo, sì, e vorrei chiederlo ad Alberto Colombo, che il significato vero politico della lettera di ieri, che arriva poche ore dopo che la Lega belga fa sapere di essere pronta a chiudere la stagione in anticipo e a dare lo scudetto al Bruges, il significato politico, che contiene anche una minaccia, attenzione, perché chi si muove in ordine sparso rischia di poi essere escluso dalle coppe europee della prossima stagione, sia in realtà differente, e cioè sia l'idea che la UEFA voglia che il calcio europeo si muova tutto all'unisono. E mi incuriosisce questa cosa, la chiedo ad Alberto Colombo, perché in realtà a me risultava, ad esempio, che l'altro giorno, nell'ultima conference con la UEFA, dalle leghe europee fosse arrivato più o meno una sorta di via libera a cercare a tutti i costi di salvare i campionati. Poi il giorno dopo dal Belgio arriva la notizia che abbiamo letto e che credo abbia suscitato in parte questa lettera. Ma sicuramente, innanzitutto la decisione della Lega in Belgio dovrà essere poi validata dall'Assemblea Generale, diciamo che è una linea che è stata data dal Comitato Esecutivo della Lega, che verrà poi confermata eventualmente il 15 aprile. Detto questo, non è solo volontà della UEFA, ma è stata totale nelle ultime settimane unità di intenti tra la UEFA, fra noi, l'Europa League, fra la ECA, di lavorare insieme e trovare una soluzione comune. Anche perché il calendario è molto complesso, non è solo l'inizio della prossima stagione, la fine di questa stagione, ci sono anche da completare le coppe europee durante questa stagione, e poi, come sapete, di solito normalmente a inizio luglio cominciano anche i turni di qualificazione preliminari per le coppe europee della stagione successiva. Comunque, senza dubbio, c'è la volontà di dare un messaggio politico che in questa situazione, diciamo, straordinaria, ci sono dei problemi straordinari e dobbiamo anche trovare delle soluzioni straordinarie, e quindi una, insomma, è veramente benvenuta una cooperazione tra i vari stakeholder, che si deve poi riflettere anche a livello nazionale, nel senso, la cooperazione in unità di intenti che abbiamo in questo momento in Europa fra leghe europee e federazioni deve essere il più possibile implementata anche a livello nazionale, fra le leghe, fra le federazioni nazionali e le associazioni italiane, associazioni che rappresentano anche i calciatori, perché poi la maggior parte delle soluzioni vanno comunque prese a livello domestico. Quello che noi possiamo dare sono delle linee guida, e ovviamente qualora ci sia la possibilità, fare di tutto per terminare i campionati. Per quanto una breve riflessione anche sulle considerazioni fatte da Belinazzo sulla prossima stagione, in realtà gli scenari che stiamo studiando permettono di finire i campionati durante i mesi di luglio e durante il mese di agosto. Finendo i campionati durante i mesi di luglio e il mese di agosto, non si impatterebbe il campionato e i campionati nazionali della stagione successiva, nel senso che logicamente ci sarebbe un calendario leggermente più fitto, ma terminando i campionati nazionali entro agosto si ha la possibilità al più tardi di cominciare i campionati nazionali a metà settembre e finire regolarmente, giocando regolarmente secondo la base leghe il fine settimana e coppe a metà settimana, terminando quindi per maggio 2021 pronti per l'Euro che si giocherà l'anno dopo. Benissimo. Quindi l'idea dell'apertura clausura in tanti campionati, ho letto qualcosa soprattutto sulla stampa spagnola, è in questo momento semplicemente un progetto di fantasia? No, queste sono speculazioni, logicamente. Insomma, ci sta che in questo momento la stampa e i giornalisti lavorino per mettere sul tavolo, insomma, dei tifosi che sono annoiati a casa, dei scenari fantasiosi. No, lo scenario è semplice: ricominciare a giocare se possibile e terminare i campionati a luglio e agosto e terminare anche logicamente durante l'estate le competizioni europee. Quindi insomma sono sempre una Coppa, un'Europa League e una Coppa Campioni da terminare, insomma, oltre alle competizioni domestiche. Bene, Giuliano, buongiorno, provincia di Viterbo. Buongiorno. Dica. Buongiorno. Niente, io volevo dire la mia, sono un direttore sportivo che non esercita, però seguo il calcio. Io credo che tutto questo clamoroso blocco che c'è stato potrebbe essere molto molto utile nel nostro mondo del calcio, perché a mio avviso le valutazioni economiche dei calciatori nazionali e internazionali erano eccessive rispetto alla qualità tecnica che poi si vedeva nei vari campi, io parlo tutti i livelli, dalla Serie C, Serie B, Serie A nostra, ma anche nei campionati europei che seguivo. E questo potrebbe servirci proprio per valutare meglio i nostri settori giovanili all'interno e soprattutto per dare una valutazione più obiettiva e tecnica, soprattutto solamente tecnica, ai giocatori che si vanno a osservare in Europa e nel mondo, dando una valutazione economica adeguata e non eccessiva come era prima. Perché credo che poi dal punto di vista economico ci saranno gravi problemi, quindi non sarà più il caso di fare quelle ipervalutazioni economiche. Beh, questo lo deciderà la situazione attuale, no, Pierluigi? Lo deciderà il mercato. No, secondo me è giusto l'approccio, direi, filosofico, cioè tutte le situazioni di crisi forse un'opportunità di riflessione, di correzione delle cose che non vanno, sicuramente ci sono delle bolle speculative che verranno meno, ma non riguarda solo il calcio, riguarda tanti settori della vita, quindi il calcio secondo me non può eccezione, questo è evidente. Ma alla fine io credo che l'equilibrio, il punto fondamentale, diciamo, macroeconomico è: c'è un mercato? Sì. Il calcio piacerà ancora dopo il coronavirus? Sì, forse anche di più. Si giocherà a pallone? Sì. Quindi un equilibrio si ritroverà, su questo non c'è dubbio, però certamente può essere l'occasione per valutare delle situazioni, per cambiare degli errori. Sicuramente per il nostro calcio negli ultimi anni non è stato così trainante, e può essere addirittura un'opportunità in prospettiva, però allora, appunto bisogna arrivarci uniti. Ecco. Volevo chiedere un'opinione invece su uno scenario che può sembrare al momento abbastanza lunare, che se praticabile secondo voi. Ad esempio l'Eurolega ha detto: vogliamo finire il torneo europeo di basket. L'ipotesi di estrema razio potrebbe essere quella di tutte le partite in una sola città, cioè quel che resta del torneo da giocare, per limitare viaggi, spostamenti eccetera, in un'unica sede. Si parla di Mosca, Istanbul, Atene, ma è ovviamente tutto solo un'ipotesi. Potrebbe essere questo uno scenario per chiudere la stagione, scenario estremo, Alberto Colombo? Non lo so, nel senso, non ci sono dubbi che se ne parla, e penso che sia una cosa assolutamente più facile da implementare, magari per sport tra virgolette minori, insomma, che si giocano magari anche in palazzetti, e quindi capisco che magari nel basket o nel volley si possa pensare a soluzioni di questo tipo, sicuramente un attimino più difficile per il calcio. Non se ne è parlato, insomma, noi ammetto che non ne abbiamo parlato nei tavoli istituzionali. Sì, però di soluzioni creative io credo. Però ha una sua logica, eh. Ovviamente se la situazione dovesse essere proprio terribile, io francamente una stagione che finisce senza l'assegnazione della Champions League, dell'Europa League, faccio fatica a vederla, perché insomma so che l'UEFA, non lo so, mi sembrerebbe veramente strano, e secondo me è una soluzione ovviamente non auspicabile, anche perché sarebbero comunque meno partite rispetto a quelle che ci sono, però insomma alla fine secondo me la Final Eight non è una cosa impensabile. Ripeto, se dovesse esserci una crisi, tale da non poter giocare proprio, per poter giocare pochissime partite e dover concentrarle tutte in una decina di giorni in un'unica sede, comunque ancora insomma. Presto. Sì. È comunque ancora presto, nel senso che in questo momento noi abbiamo dato delle linee guida tenendo in considerazione le informazioni che abbiamo in questo momento. Siccome l'evoluzione del virus è sconosciuta, molto probabilmente ovviamente ci rincontreremo, così come stiamo facendo regolarmente ogni settimana, e a fine aprile, entro metà maggio, direi al più tardi, saremo nella condizione di fare nuove considerazioni e eventualmente continuare col piano, con i scenari che abbiamo deciso, o cambiare gli scenari. O cambiare anche le formule, perché di questo si è parlato. Questo non ne abbiamo parlato, nel senso, priorità assoluta che è sul tavolo in questo momento è terminare sia i campionati nazionali che le coppe europee assolutamente con i formati normali e regolari. Va bene, io la ringrazio, grazie davvero, grazie Alberto Colombo, ricordo segretario della European Football League. Scenari che possono sembrare reali, ragazzi, quello dell'unica sede, del cambio delle formule, dei play-off, però ci sta parlando poi di tutto. Cambia tutto di giorno in giorno, ha ragione Alberto quando poi sottolinea il fatto che la pandemia, da questo punto di vista, ha tempi molto diversi da un paese all'altro. Noi cominciamo lentamente a pensare alla fase 2, anche se giustamente siamo ancora, dobbiamo avere tutte le prudenze del mondo e l'invito è sempre lo stesso. Per quel poco che conta il nostro invito, ma è rimanere a casa, perché insomma è il modo più sicuro per non farsi del male, non fare del male agli altri. Però è chiaro ed è giusto che in Italia si cominci a pensare a una fase 2. In Spagna sono una settimana in ritardo, negli Stati Uniti sono 2 settimane in ritardo rispetto a noi, quindi è giusto quello che dice Alberto, cioè ci sono sensibilità diverse e tempistiche diverse nei confronti della pandemia, e ci sono anche umori diversi. Poi ragazzi, c'è la scienza. Insomma, le notizie che arrivano da Hong Kong sono notizie inquietanti, perché ci dicono che, o anche dalla stessa Wuhan, sono notizie inquietanti perché ci dicono che anche una volta che ne sei uscito, poi c'è la possibilità che dei focolai si possano riaprire. È chiaro che domani mattina arriva la notizia che questo famoso vaccino che vedo funziona sugli animali viene confermato, oppure molto più rapidamente, perché sembra più facile, si possano trovare un mix di farmaci che va a ridurre, certo, il rischio. Cambia tutto. Questo è evidente. Guarda, intanto io ti cito due cose. La prima è uscita da qualche minuto, l'anticipazione di un'intervista al presidente della UEFA Ceferin, che ha chiarito ulteriormente quello che è scritto in quella lettera lì. Ha parlato a ZDF e ha detto, parlando dei belgi, questo non è il modo giusto, la solidarietà non è una strada a senso unico. E poi, proprio perché non ci siano dubbi, ha detto, i belgi e gli altri che potrebbero pensarci ora stanno rischiando la loro partecipazione alla Coppa Europa della prossima stagione. E questo per mettere le cose chiaro. L'altra risposta invece, velocissima, c'è un amico che via SMS ha scritto, perché non cancellare la stagione 19-20 e ripartire nel 20-21 con le stesse squadre in campionato e coppe? Allora, è chiaro che è uno scenario assurdo, paradossale, perché vorrebbe dire cancellare completamente anche le prime 26 giornate per quanto riguarda la Serie A, però ti posso dire che c'è almeno un dirigente di club della nostra Serie A che immagina questo tipo di scenario, e cioè di mandare in Europa l'anno prossimo le squadre secondo la classifica del campionato scorso. Ah, come la vedresti, Marco? Beh, io ho espresso una tesi assolutamente minoritaria, ma che quella di, considerando impossibile anche nella migliore delle ipotesi creare una realtà in cui si giocheranno 120 partite, che sono più o meno le partite delle giornate che mancano alla Serie A, io preferirei, diciamo, assegnare i posti europei sulla base dell'attuale classifica e fare un playoff da 8 per assegnare invece lo scudetto, quindi 7 partite. Giocando chiaramente a porte chiuse, ma magari nello stadio di chi è messo meglio. Questo per dare un segnale, diciamo, a giugno, massimo inizio luglio, di risveglio, di ripresa, e poi cercare di ripartire al meglio, riducendo i danni economici nella prossima stagione. Insomma, questa è la mia idea. Chiaramente anche Gradin ha proposto i playoff ed è stata bocciata questa idea, questa suggestione. Però, appunto, ripeto, arriviamo al cambio delle formule, no? Lo scenario che anche Alberto Colombo ci diceva, ragazzi, no, so, però anche a livello europeo, considerati tutti i casini, problemi, le variazioni di sviluppo del problema nei vari stati, si potrebbe anche lì arrivare ad un'idea di cambio della formula per terminare la storia. Su questo la UEFA ha detto che ogni federazione può muoversi autonomamente, purché arrivi comunque ad una classifica. Ecco. Sì, sì, la UEFA ha bisogno di 4 nomi per la Champions e di 3 nomi per l'Europa League. Poi uno può decidere come fine. Da questo punto di vista, la UEFA è molto semplice. Secondo me l'UEFA farà di tutto per giocare le coppe con il vantaggio oggettivo, con lo svantaggio dei trasferimenti sicuramente e dei diversi tempi della pandemia che quindi possono essere un problema, ma col vantaggio oggettivo che le partite sono veramente poche, insomma siamo sì, poi ti ripeto, anche lì si potrebbe arrivare a valutare l'opportunità di un cambiamento di formula, che ne so, partita secca piuttosto che altre soluzioni, Final Four, insomma, anche a livello internazionale potrebbero esserci delle variazioni. Alberto, buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, come avevo spiegato prima ai colleghi, ex presidente di società sportive, dirigente di Serie A di pallacanestro, di calcio fino alla Serie C, ciclismo, volley, sponsor, anche tutto il resto. Allora, non abbiamo ben chiaro una cosa: qui non è l'attentato, la bomba per cui l'attentatore mette il tornello intorno allo stadio, controlli tutti, peso. Qui, ragazzi, è uno starnuto, la gente svuota gli stadi. Cioè, mettiamoci in testa questo, ve lo dico da 59enne. Qui la gente scappa dagli stadi per uno starnuto, per uno che arriverà e tossirà un po' più forte, cambierà tutto quanto. Mettiamoci in testa che lo sport, come l'abbiamo visto fino adesso, non esiste più, ve lo posso garantire, perché sento i rumor delle società, sento i presidenti, ma gente che ci contattiamo e ci sentiamo, cosa sarà, cosa non sarà, cambierà tutto, scordiamoci lo sport come adesso. Immaginatevi riprendere il campionato tra un mese e due mesi, succede che c'è un altro attacco pandemico o un giocatore non sta bene, compagnia bella, fermiamo tutto ancora, ricominciamo tutto. No, scordiamoci tutto questo, è finito, sarà una storia nuova. Sarà tutta da scrivere, tutta da raccontare, non ci saranno più i pienoni nelle piazze a vedere le partite, a vedere tutto, perché primo starnuto, prima persona che tossisce male o meno. Ci salverà la scienza, amico mio. Sì, ci salverà. Spero, spero. Adesso io vi saluto perché vado a vedere la replica di Mad Max. Ma ha ragione, in questo momento scenario post-atomico, in questo momento ha assolutamente ragione. Sì, ma è chiaro, però tra due mesi, cioè, io credo che anche emotivamente le nostre prospettive cambieranno con il cambiare dei periodi, delle stagioni, anche le nostre prospettive emotive. Però adesso vi ringrazio, vi saluto, Marco Bellinazzo, Giovanni Capuano, Pierluigi Pardo, ovviamente ci troviamo a strettissimo giro di posta, vado a vedere Mad Max, giuro. Grazie anche a Miriam Lucchetti, Claudia Schiattone, Roberta Frisani, Gianmarco Ferronato. Ciao. Venga, è stato una montagna russa. Ciao, Radio 24. Saluti.